una gaffa. Io se lo fai con un burro lo fai. Capo di minchia. Avanti, buonasera, ciao Gianni. Ciao Attali, allora, non c'era nessuno. Ma, no, ho sentito qualche fischio e buh. Io stavo chiamando, ma non riuscivo a giocare. C'è Cristian, ma non si compra di cosa dice, buh. Infatti, quando parla non si capisce quello che dice. Io stavo chiamando, ma non c'è mai nessuno. E adesso c'è la gente, va? Contento sì. E va appena acceso pure. Cristian stamattina mi ha portato l'antenna. Cosa? Salvi. Meno male, dai. Cioè l'ho fatto recuperarla, dai. E va bene. Già parte la stato, comunque dai, non c'è problema. Sono contento, dai. Tutto bene, ciò che finisce bene. Avanti Natale. Ciao Cristian. Cosa vuoi che ti dica già? Però le mani secche, dovevano lasciarla dove era l'antenna, non la dovevano toccare da dove era, da dove l'avevi appoggiata tu, per correttezza. Invece vici là, si tirano in buccia da giri e la poi girano un po' da buco. Ma la gente ha avuto un culo perché sabato sera era il circo in Dal Sosso, in Tosavirio, e ho potuto vedere l'antenna, se no non che ne sapevo io. L'ha lasciata lì, capito? Mette l'ho vista che c'era appoggiata la colonna, ma non sapevo di chi era, che si poteva prenderla, metterla da una parte, qui chi andava a lamentarsi, è naturale che quella era la sua. Poi stavo quasi per chiedere a Natalino se mi dava la sua, perché ha lo stesso attacco della mia, la Sigma. Tanto non andrà tanto da fare. Sì, infatti non la sto usando io. La mia è completa di... non facevi altro che attaccarla alla macchina e buh, perché c'ha la base magnetica e tutto. C'è una bella faccia. Bianco per me la mia, dai. No, ma la mia va bene, capito? Io nel mio attacco della Turbo 2001 mettevo anche la Sigma e poi facevo le comparazioni, capito? Ho capito, ma io se ti davo tutto, cosa me ne va zio? Magari la base no, se non ti serviva la base me la tenevo io per attaccarmi quell'altra. La base magnetica, io ce l'ho capito, ci avevo la base magnetica con l'attacco, che è già pronta per mettere l'antenna, solo che l'antenna me l'ho dimenticata. Però il magazziniere come l'ha vista la doveva prendere e mettere da una parte, invece non l'ha fatto, capito? Qualcuno ha detto a chi non ne fregava nulla di prenderla e per buttarla via. E infatti, adesso mi devo fare l'attacco a PL io. A Don Luigi! Mi devo fare e poi lo metto sopra una base magnetica larga come quella che ho io per la macchina. E mi attacco quell'altra. Beh, l'ho fatto che me l'avevi già pigliata la turbo, perché senza non potevo stare, questa volta me l'ho comprata, capito? Adesso ne ho due. Cazzo, tu fai impresa a comprare. Ehi, Natalia. Non ce l'avevo più, cosa facevo? L'ho cercata da tutte le parti, l'ho trovata, poi mi è venuto in mente di dirlo in radio, capito? E cappa. E al limite ce la davo io la... Ah, Luigi, abba! Cappa, cappa, vabbè, io ci ho pensato, ho detto, magari serve a lui, poi. E quindi vabbè, ce n'è una in più, se qualcuno la vuole, non la mandano, non me ne ha aperto il filo, niente, tutto quanto sigillato. Intanto non la macchina ha messo l'acqua, quella vecchia perché l'ha già tarata di stazionare tutto quanto, la pizza. Lo so, quella lì era già pronta. Anche se la Turbo 2001 al massimo ti dà 1 e 2 milistazionari, però non riesce a talarla a 1, 1 e 1 in tutti i canali, capito? Quindi se la tali bene, riesce a farla 1 e 1 e 1 massimo. Sì, infatti. Mi dà 9 e 3 con 7 e 4 e 7, qua andava benissimo. E mette credo. Sì. Uia, vabbè, e comunque è fatto, adesso ci posso chiudere. C'è che mi hanno chiamato dalla scuola? Chiamato ti hanno? Ma con riserva, devo andare il 24 a fare il tampone e l'analisi del sangue, per sapere il gruppo sanguigno. Se qualcuno rinuncia, se trovano qualcuno che ha qualche cosa difettosa, tipo se è positivo al coronavirus, roba del genere, o che rinuncia, ci sono io in domani. Sì, infatti ho capito. Dillami. Ma no, devo aspettare all'altro. Quando è che devi andare? 24. Ah, cappa. Oh, gigante, ma avemmo. 20, 19. 19 ne avevo. Il 24 è lunedì, capretto mi hai? Io già ti ho capretto. Qui tanti che ti migliano in impresa, che ti ricoveggiano in impresa, romanco ti la base in Italia, mamma mia. Questa è l'equipe senza robot, che opera senza robot. Se l'altra arriva subito, preferisco l'altra, io ti dico la verità. Sì, uguale, mi. Già sono bravi tutti in chili. Quello sì, però con l'ombra ci sono zero possibilità di errore, capito? E non è che lo fanno per il gruppo sanguigno, per sapere che il gruppo sanguigno c'è, cioè tutto qua. Sì, infatti. E voi come ti appena è libera già la peratturia, ti chiamano. Vaga, io. Se la croce blu può cubiglia, va accompagnati da casa al policlinico, 40 euro vuoi. E chi? La croce blu. Ci deve mai macchiso. 40 euro, ci sono praticamente cifre fisse adesso, non ce n'è più di offerte. Ah, già è vero che va volontari come ti chiami noi, no, non ce n'è più. Sì, c'è solo la misericordia a me occupare. Sì. E maggior risolto, mi accompagnano amici. Sì, infatti. Meglio che ci rimaniamo, che ci rina impari che dalle altre. Te credo, che su 40 euro, mai io. Ti già mi da sì e ti biglia di mano. Quanto vorrà da sì per accompagnare il policlinico a casa tua? Ma se ti prende 15 euro è troppo. Però sai cos'è? Che il taxi poi chi me la dà la mano a prendere la roba, a portarla su, è quello, hai capito? E vabbè, ma portarla su non lo fanno entrare a quello che ti dà la mano. Nel reparto non ti fanno salire se non ti fai il tampone. E chi la porta la roba su? Come l'ascensore. C'ho una borsa, una busta, le cartelle, c'ho due stampelle, non lo so come ti vuoi. Ma non lo fanno entrare nel reparto, assolutamente. Se non è che lo fanno arrivare alla porta e poi se ne deve tornare indietro. È così. Se vai all'ambulanza ti fanno entrare, li fanno entrare, quelli dell'ambulanza li fanno entrare. Non lo so questo. Nei reparti di degenza non fanno entrare nessuno. Adesso sì, adesso li fanno entrare. Non è più come prima. Vabbè, se li fanno entrare allora conviene chiamare l'ambulanza. Allora con la misericordia, così non paghi tutti i sirina. Li dai una mancia e via. E così almeno ti portano la roba su. L'ho già chiamata, sono occupati per quel giorno, c'hanno dei trasporti a quell'ora lì, non si possono fare. È un'ora buona. L'ho chiamata prima per non chiamare all'ultimo momento, poi loro vogliono sapere il giorno giusto, tutto quanto, l'ora. Come fai a dirle, se loro non te l'hanno detto, te lo dico il 24, com'è la situazione? Infatti, poi ti chiamano loro. quando devi andare, non te lo dicono neanche il 24, ti fanno quegli esami che devi fare del sangue, ti chiamano loro quando è pronta la sala operatoria, dicono deve venire tal giorno a tal ora, deve essere qua. Non è un scimbaro, perché io mi devo anche mi devo preparare, mi devo fare il bagno con lo shampoo antibatterico, rasare la gamba, insomma devo fare un po' di roba. Ti avvertono prima di andare, no? Ti dicono deve venire il 26 alle 5. E te lo diranno il 24, no? Il 25 te lo dicono. Te lo dicono un paio di giorni prima, mi sa. E adesso vediamo, speriamo che si concluda tutto questa volta, così almeno ci penso. E infatti i primi ti chiamano in presa, ma di rugavi da mezzo a chi così non puoi chiamano. Cazzo. Dolore dall'altro mondo, stanotte mi sono alzato 60 volte, ho provato, mi sono messo anche nella poltrona, c'è stato un po' meglio, nel letto non potevo stare, nella poltrona che si abbassa dietro, la schierale, si allunga il coso, l'appoggiapiedi, un po' così sono stato meglio, mi sono assopito un po', ma non molto, poi mi è venuto un dolore forte e mi sono svegliato e sono passato. Allora, non è così, mamma mia. Ah. Purtroppo è una cosa dura, è un martirio. Sì, a me lo dici. Dolori dall'altro mondo. Non mi ricordo se con l'altro ho provato tutti questi dolori, forse sì e non me ne ricordo più. Senta, Concetta, qualche cosa vuole dire? No, sto dicendo, siccome c'è un prete di Sassari a Bari che li conosce stasera, e l'ha messa in quel canale lì. Ah, quindi lo vede? Sì. Kappa Kappa. Adesso vediamola, speriamo bene. Sì, infatti. Catta di Sant'Enna, chi mi ha giubilato io, lo sa che non è lunga. Oh già, io dico una buona zanno, a meno che non c'hai una di quelle basi magnetiche con tre basi, no? Perché sennò camminando non puoi, sei troppo grande come un senno. Ma sarà quella che va Vittorio Giove, che prima gli vidi all'antenna della piazza di Rubaro, si metteva, si è visto per andare, non dalla parte dove vai tu per campagna, dall'altra parte, dove si mettono le coppiette e cose, chi vedi su quel rientro, si metteva lì e c'era il palo, che c'era la piazza, l'antenna del palo, immagina. No, io sto dicendo quella della macchina, non quella che aveva lui fatto a canna da pesca, già lo so che quella è grande. Ma quella della macchina quanto alta? 1,84 m. Dai, è meno sempre della, sempre meno della turbo, è 2 metri la turbo. Vabbè, ma io la metto la turbo, solo che da tali non ti fidare perché a me mi si è staccata la base magnetica, l'ho spaccata. E questa qui è più grande, pure più rigida, non ha nessun coso, è più rigida perché è in tre pezzi, c'è un pezzo che già è mobile, però gli altri due sono fissi. E tu lo sai cosa fai, la piatti, puoi dire quando vai a Osimo, la piatti da fermo e poi la smonti, la sai tu. La piatti così ti fai gli ex da Osimo oppure dal monte, la piatti quando sei fermo. E infatti l'unica cosa è quella. Se noi avevo una di questi vasi con tre basi magnetiche ed è attaccata al centro lì, quelle lì già non si staccano, penso. Ma metta musica sulla capota. Avanti Cristian. C'è Emilio, si dica le pervite sulla capota. Roba da chiudi. Ehi, non è un'antenna per la 27, qui. Ed è, se tu la vedi da su chi. Signore, sì. Passo, guarda, la antenna si è mai staccata, grazie a Dio, è in macchina. Non è che ci ha trovato la tachimetro, fortunatamente. Dipende da che base magnetica uno ha, capito? Praticamente che la sigla è quella piatta, quella fine fine fine della sigla, la base magnetica. Quella grande, quella 150. No, quella 150 della Sirio, quella piccolina, quella grande ma piatta a piazza. E quella lì tiene un bene. Non so quella tiene un bene, infatti, 190 che metto orario, sono sceso al Alghero, non si è staccata. Detto, un attimo, ma dipende anche dall'antenna che c'è, se c'è l'antenna rigida e pesante come la mia, vedete, si stacca, un attimo, break. Buonasera Gianni, buonasera Natalino, buonasera Cristian. Buonasera. Ciao Robè, mi sentite, avanti l'altra. Ciao Robè, ben sentito, buonasera. E beh, che si dice di bello, adesso vi stavo ascoltando, state parlando di antenne strappate dalla cappotta. E io mi ho preso quella della Proxel, la Pro X1, quella multibanda, però quella lì è un bel grande, gatta, e mi devo fare anche l'attacco a pelle per la base magnetica, adesso mi devo comprare un'altra base magnetica e fargli l'attacco a pelle perché si avvita quella, come così la posso usare anche per la bibanda VU. Ne ho tre qua antenne, una l'ho costruita io addirittura. Ho mandato un messaggio a cosa, a Riccardino, adesso lo chiamiamo, lo fa entrare, vediamo se entra, perché ci stava facendo cosa. Riccardino ci sei? Dice stava andando a mangiare le galline, e che dopo lo richiamiamo, dai, così ci fa piacere risentirlo dopo un po', naturalmente se fa piacere anche a voi, a me sicuramente. Ricca. Che bello, gente. Io non l'ho più sentito, ci telefonavamo ma non mi ha più richiamato. Ti sei comportato male, hai fatto da monello Natali, sei in coso. Come si dice ai bambini quando fai in discordia? Ammalato ero a letto. Quando mi chiamava quando ero ammalato, che ero a letto, capito? Ok, poi Gianni e poi Cristian. Riccardino, cioè, anche a me faceva piacere che un ragazzo giovane apprendesse e le piacesse questa frequenza. Ha fatto avanti ieri 15 anni, è passato in officina, è diventato altissimo, infatti ho detto cavolo, quanto crescono i ragazzini. Vediamo, Riccardino, ci sei? Nulla, ancora forse sta facendo le operazioni di mangiatoia. Vai Cristian. Adesso fra un po' chiudo, andiamo da casa ragazzi. Però c'è un cibito sotto, Robè, lo sai? Cos'hai detto Cristian? No. Non ho capito. Il segnale c'è, ma la radio è un po' scombussolata. Già, non hai capito cosa ha detto? È lui che sta in fretta. Parla piano. Caro, c'è un filo tra quando modula. Cosa ha detto? Che non può sapere, Robè? Il segnale è quasi 9, però non si capisce niente la radio perché si porta presso un disturbo. Già, si è accesa. Qualcosa accesa? Ehi, perché c'è un sempre di din din din din din din sotto, un rumore strano. No, non c'ho niente acceso. C'è solo la ventola dell'alimentatore. Oh Roberto, c'è qualcosa accesa sotto che entra nel microfono. Io c'ho qualcosa accesa, probabilmente non sia quando schiaccio il colpo sul PTT per questo MC50, cioè il testo in alluminio e sbatte, ma acceso non c'ho niente, tutto spento. Ventole non ne ho perché tutti gli impianti sono senza ventole qua, le radio, quelle che ce l'hanno non ha... sono al minimo, per cui non ci sono problemi. Ok, ma dove ti trovi Cristian? Sì, adesso sono già arrivato a casa. Ah, quindi sei in macchina tu? Sì, sono sempre in macchina io. Adesso c'è salito 9 più 10, no, infatti non riuscivo a capire queste variazioni di segnale. Natalia, te il mic. C'hai un rientro? No, c'hai, fa capito. Guarda adesso, magari c'è proprio il microfono troppo alto. Adesso no. E allora mi ha toccato appena appena il livello del mic, del coso. Appena lo sfiori questo qua, aspetta, micidiale, sono meno di uno, eppure cavolo. Vabbè, non è il microfono ideale per questa radio, lo sto usando così, questo è un microfono, un MC50. Ma è modificato? No, è normale, non è amplificato questo. Ma va buona la radio. è abbastanza forte, dai, è comprensibile. Sì, K. E infatti l'MC50 non è amplificato, è come un microfono normale, solo che da tavolo. E adesso infatti ho già due di quelle giraffe pronto a piazzare i microfoni fuori da studio, li tiro via, perché era la scrivania dove c'è tutti i ripiani. Cioè adesso in questo momento ho 4 di microfoni, parliamo per gli HF, e più ci sono, c'è un altro microfono per l'altro baracchino. E troppa roba, qui sono le tracce del coso, dei computer, due monitor, e mi hanno fastidio. Infatti due li metto a coso, a pedale, così mi tocco un po' di imbarrarsi. Vediamo se Riccardino è arrivato. Riccardo, ci sei? Tu, vabbè, dai, chiamerà eventualmente. Di nuovo Cristian, date il mic. Ma ti ha detto che entrava? Sì, l'ho chiamato, allora, ci siamo sentiti ieri in officina, ero da un po' che non lo sentivo, dice che ogni tanto ci ascolta, poi l'altra volta era sul 23, è andato, non mi ricordo chi c'era, mi ha detto, e gli ho detto, sì, sì, no, mi fa piacere, non ti preoccupare che già ti vogliono tutti bene, era un po' così, intimorito, dai, perché magari un po' di vergogna quando sei tanto tempo, ma una volta che prende piede gli ha ritornato come prima, non ti preoccupare che non esistono i problemi. Poi si stava appassionando questo ragazzino, mi dispiace poi che abbia perso la voglia. Dai, vediamo un'altra chiamata, lo chiamo se viene, se no riprendi tu Natalina. Riccardo, ci sei? Nisma, e vuol dire ancora sta lavorando con le galline. Vai Natalina. E quando finisce già entra, tranquillo, no problemi. E io non ho avuto mai niente, lo stesso con Riccardino, mi fa piacere se entra, anzi mi dispiace se non stava studiando. Natalia, cambiando discorso, ma tu stai partecipando ai corsi? A quali corsi? Il corso con la patente. E c'è solito, non ho perso una lezione fino adesso. E quando è? A novembre, prima di novembre lo fanno? No, hanno fatto slittare, torna la data, saranno molto impegnati al mese di... E quindi hanno fatto slittare la data e quindi non si sa ancora. Prima era dal 14 al 18 novembre, ma dice che hanno fatto slittare la data. Vabbè, almeno avete il tempo per prepararvi meglio, dai. Ok, vediamo Cristian, se c'è ancora, se no riprendi tu Gianni. Ma poi si stufa uno, stava sempre studiando, non ha votato, non ci pensi più, ma stava sempre studiando, poi Natalino c'ha già le basi, penso che sia già pronto a darlo l'esame, senza penso. Natali, ma cosa? Danilo sta partecipando? Lui finiscila che annunciare le che eravamo in tanti, adesso lo sai quanto siamo quelli della sezione nostra? Sì. In tutto? E in tutto, sì. Ma lo sai, niente che ha mollato. E chi c'è che conosco io? Non lo so se lo conosci, Tore solo è rimasto di Sassa, gli altri hanno tutti mollato. C'era Saberio, c'era Daniele, vabbè Daniele sta lavorando, Franco, California, tutti mollati. Lui hanno mollato altra gente, pure eravamo più di 20, eravamo. Addirittura, mi dispiace, perché magari sentire voci nuove. Danilo non c'era, Danilo quello che lavora, vabbè non diciamo dove, sennò è troppo riconoscibile. Quello lì non c'era, molto appassionato, tra l'altro sulle antenne era abbastanza preparato. E purtroppo molta gente ha mollato. Ce ne sono di Porto Torres, due mi sembra di Porto Torres. Insomma, anche gente di fuori c'è, quindi non... Perché la sezione è quella di Porto Torres. Sì, già li conosco, sono amici, Antonio, e due Antonio la fanno la lezione. E c'era Nando, Antonio. Insomma, Antonio, quell'anziano l'ho sentito in 40 metri, arrivava anche forte qua, perché c'era quello del corpo degli alpini. E io sto partecipando a quelli che stanno andando anche bene. Sono in Sardegna sono il primo in tutti quei diplomi, ne ho fatto una ventina, sono, non per vantare, sono quello che ha fatto più punti di tutti, quello delle alpine sono abbastanza avanti, ce ne sono tanti. E facciamo un'altra chiamata a Riccardino, se risponde se no riprendi tu Gianni. Riccardo, ci sei? Prego. Chi è avanti? Chi sei? Riccardo Alfa 21. Ah, ciao Riccardino, te l'avevo sentito, difficile, la voce è riconoscibile. Ciao Riccardino, guarda, ti rilancio a Gianni che ti saluta e poi a Natalino. Vai Gianni per i saluti. Riccardo, come va? Riccardo. Ah sì, scusa, mi stavo parlando un attimo babbo. Ah, bene, bene, grazie, già. Stavo un po' studiando, poi mi sono fatto le vacanze, quindi non sono più entrato. Ehi, vabbè, non c'è problema. Ti accettiamo sempre. Però la voce ha cambiato, Riccardo, mi sa che sta diventando un uomo. Addirittura, cambiata. Boh, a me non sembra. No, ma sì, non ti avevo riconosciuto. Vabbè, comunque ci fa piacere che stai entrando. Avanti. Ciao Riccardi. Ciao Natali, come va? Sto bene? Sì, sto bene da mettere bene. Salutamelo da parte mia. Ciao Riccardino da Concetto. Salutamela. Adesso quando sei dall'età dell'adolescenza superi la trachea, si trasforma e ti cambia anche il tono della voce, Riccardo. Infatti in quel momento mi sembrava la voce di tuo padre, ho detto, boh, non mi sembra Riccardo. Infatti ho detto, chi è questo qui? Molto diversa da come me la ricordavo, era un pochettino più squillante. Dai, comunque va benissimo, sono contento che sei rientrato. Il segnale 9+20 sta arrivando molto bene. Che radio stai utilizzando, Riccardo? No, sto usando un baracchino adesso, sto usando l'STP. È quello che a volte porto in camper, stava andando bene, con questo già ho parlato diverse volte anche cose facendo, parlando con gente in turno, già va bene. Assolutamente, va benissimo. Vai Gianni. Sì, ho la radio, qua rappresenta la radio. Tante volte la radio in vecchi tempi sono meglio di quelle di adesso. Anche se vado che hanno meno canali, quello di voi, però. Hai fatto l'immagine ancora America? Sì, qualcosa già ancora. Non ho tutto, però qualcosa già ce l'ho. Come già? Hai anche il Galaxy, sa pure. No, no, in camera no, niente. Adesso c'è qua, come te l'ho detto, di angolo. Comunque, no, quello non ce l'ho, quello non ce l'ho, è da sistemare. Non è operativo. Ho capito. Vabbè, avanti. Roberto, ripeti. Il microfono quello stai utilizzando, da palmo o da tavolo, Rica? No, boh, adesso sto usando quello base, perché stavo usando per un bel po' di tempo le MD+5, però quello che ho stava dando problemi, infatti molte volte mi sentivano male, invece usando questo mi sentivano perfettamente, quindi sto continuando a usare questo, le a tavolo, ma è lo stesso, qualche base. E che microfono è questo che stai utilizzando? Che cosa? Aspetta, non ti ho sentito. Che microfono stai utilizzando? Ah, quello quello che danno la fabbrica, anche la Ah, quello è da palmo, non è un microfono da tavolo, ho capito se stai usando un microfono da tavolo. No, va benissimo, non è fortissima la modulazione, ma è bella chiara, pulita. Niente da dire. Vai Natale. Il capo, un attimo di bianco, là devo fare cose in cucina. Riprendo fra un po'. Cappa, vai Gianni. Vabbè, Riccardi, però quindi lo stai facendo ancora? Qualche volta, siamo andati un paio di settimane fa alla dentiera, ho fatto un paio di voletti, così, ma anche di speciale, perché poi il vento ha calato un sacco un paio di settimane fa quando eravamo andati, però sì, dai, ho fatto un paio di corsi con Babbo e così. L'altro giorno mia figlia mi ha mandato, mi ha detto che era a Torturì, ha detto ma ci fa Torturì, e dopo te lo dico, mi ha mandato il filmato, si è buttata col paracadute da 5.000 metri. Cavolo, no, come ho detto, boh, io non sono andato in quelle zone, in una delle zone che sono andati, sono andato a Sentiera, poi lì è vicino a... la locale Da lì li ho visti buttandosi, ce n'aveva uno di Porto Torres e ogni tanto volava lì, ma ti pare tanto tempo fa, tu forse non eri ancora nato. Ho capito, no, comunque quando papà mi fa fare qualche volo, io non ci vado, se è dato va lì. Cioè, io a me in riposto, comunque l'ho fatto provare di Chieti o a Gentiera, perché ci fa anche l'Alghero, non c'è molto spazio, perché comunque stai lì dove c'è il Carlo Quinto, oppure anche a Palai, poi c'è lo Trapiombo, quindi lì non ho mai fatto niente. Questo qua è il portatore, se però non è che volava tanto, stava molto attaccato quasi alle rucce, non è che andava lontano, cosa. Non si fidava forse, era forse alle prime armi. Ho capito, sì, più o meno sta così, qualche volta quando c'è le condizioni proprio si porta un po' verso la finestra lì, ma comunque sta lì in zona, non è così di molto. Insomma le cose, sono ascolti estremi ma sono bene, chissà che bello volare. Avanti, no? Riccardo, ma stai volando anche da solo o in coppia? Allora, ho fatto in coppia un babbo di 20 volte e poi alla fine tu dicevi lasci i comandi, così, e poi mi ha fatto fare campetti che apri la vela, una cosa di 20 metri, mi sono attaccato a terra e poi mi ha dato ogni casino, perché se mai arrivi, cioè parti da vedere la scusa dove c'è il tratto e poi lì c'è il mare, quindi arrivo quasi fino al mare e poi rigiro e se volete a terra lì. Va bene, dai, piano piano prenderai connessione di coso, di volo. Dai, è stato anche Claudio, salutiamolo. Ciao Claudio, buonasera. C'è Riccardo, rientrato, abbiamo sentito dopo tanto tempo. C'è Gianni, Natalino e Sembai. E c'era Cristian, che poi non l'ho più sentito. Però ho sentito qualcuno chiamare sotto. Vediamo di farlo entrare. Avanti, chi chiamava? Su, vai tu Claudio. No, non ce l'ho con un saluto, statemi bene. Io sul 20 stavo chiacchierando con Massimiliano. Sono seguito e rimango in ascolto, ripetilo. Sì, a Claudio, siamo qua quando vuoi. Però se TV non so parlare, Bob stava chiamando anche da qualche camionista tra di loro. Gianni, di nuovo a te. Ciao Claudio, mi hai sentito, dai. Avanti la tali prisciata. La taglia in cucina. Sta cucinando? No, io già ho mangiato, oggi ho mangiato presto perché ho detto se mangio più tardi, se mangio adesso poi mangio di nuovo, invece ho mangiato direttamente, cenato e via. Mi sono fatto una bella fetta di fettola di fegato, un po' di salata e va bene così. No, io scherzando, oggi si è laureata mia figlia, la grande. Eravamo al bar con degli amici, come si fa sempre, una bevuta, però dalla bevuta ci siamo usciti nelle camere di mezzo, patatine, ha portato prima le patatine e le cose leggere, salatine, poi tramezzini, pezzi di coso, di toast, patatine fritte, a giorno ci fa la cena questo qua, infatti ho detto, adesso la fame non ne ho, mi verrà tra un'oretta la fame. E di nuovo già. Auguri, vabbè. Vabbè, la mia già si è laureata già da un po' di anni, dai. Quanto ha preso? 100. Che facoltà è? Sociologia, ma c'era un paio, una, io non so come ha fatto a prendere tutto quel punteggio, perché ce n'era una, secondo me era brava, non detto da me, mia figlia era un po' emozionata, tutti no, è andata benissimo, anzi ha fatto una bella discussione, eccetera, ce n'era una che secondo me era brava, l'ho sentito, però gli altri hanno detto no, era una cosa banale, non era niente di importante, una che sembrava un'ignorantona, ma di quelle convinte, però ha preso 110 e lode. Anche Emanuele ha preso 110, dell'educazione se laureata. Questa fa quelli per gli assistenti sociali, adesso non mi ricordo come si chiama, c'ha un nome di scienze umanistiche e sociali, una cosa del genere. Ok, vai Riccardo. Ah, ho capito. Saluta Claudio che è entrato, buonasera. Non lo sapevo che sei laureato, lo sai, tua figlia. Sì, la più grande. Ok, cosa volevo dire? Boh, vediamo se Natalino ci è sceso dentro i fornelli, se si è bruciato le mani, i piedi, vai Natalino. Niente, vuol dire che è ancora impegnato, sta cucinando roba buona. Cosa volevo dire? Tu Riccardo sei in seconda o in prima, ricordami? No, in seconda. Quest'anno è che il corso tra virgolette normale e poi dall'anno prossimo mi devo scegliere per fare il biotecnologico. mesi tutto sei. Ah, e adesso sono all'istituto tecnico Rugli, che dove c'erano i ragionieri, mi sa, che c'erano davanti alla Coimbra, in piazza Marconi. Ah, ho capito. È una sezione nuova, io ho fatto le scuole di geometri di lì, mi sono diplomato lì, ma hai sentito questa attività, come si chiama, Riccardo? Sanitario? Adesso, prima iniziava ITA 5, tecnico Salvatore Duglio, ed è tipo biotecnologie, medico e sanitaria. Quindi già, se serve aiuto, ci abbiamo Riccardino quando si diploma. Marco invece è mio figlio, si sta per laureare. Lui è tecnico biologo. Ho un sacco di ragazze in biologia, io ho due nipoti, anzi tre, tutti e tre in biologia. E a Marco gli mancano due esami e poi si laurea, dai. Deve dare la tesi e si laurea. No, ma lui ha fatto il triennio qua a Sassari, poi a Bologna ha preso la specialistica. Ma cos'è, biologia marina tuo figlio? Biologia marina o che cosa? No, biologia, tecnico di biologia, non marina. Perché mio nipote ha fatto biologia marina, subito lavoro ha trovato. Adesso sta insegnando, era prima a Orbia, adesso l'hanno trasferito qua a Sassari, roba di calcine sedere importanti, probabilmente ha avuto. E allora ha insegnato a Orbia, giovane nel cavolo. Comunque a Marco gli è sempre piaciuta la biologia, quindi prima la biologia stava facendo per biologo normale, poi ha cambiato e siccome gli esami erano gli stessi all'inizio, ha dato gli esami per tecnico di biologo. Sono sempre belle soddisfazioni, dai. Ok, vediamo se Natalino è rientrato. Natale, Pasqua e Capodanno, ci sei? Niente, vai Riccardo, a te il mic. Cosa volevo dire, l'antenna è sempre le solite, c'hai Riccardo. Sì, non ho cambiato sempre quella da Sirio, non mi ricordo che modello è, e poi anche quando qualche mese fa che avevo tipo fatto una raffica di vento, dovevo sistemare, c'è la direttiva che ha perso la via da riassistare. Comunque più o meno sto usando queste due, o sto usando questa, sto sommato, oppure l'altra, quello volevo fare qualche collegamento. Ma ne avevi due di quelle Sirio 27, mi pare, o sbaglio? No, di quelle infatti quelle Sirio 27, una è qua, che è a fianco a casa, e l'altra è là in garage. Infatti non lo so, perché di quella postazione non sto più usando, dato che ho trovato posto dentro casa, infatti vediamo se portarla, magari riesco a spostarla e mi faccio arrivare in capo in camera e riesco a portare in camera o Quindi sei dentro casa, non sei in garage tu adesso? No, ormai non sono più in garage da un bel po', ho piazzato la studio qua a casa, su quella casetta che adesso che è in alto, e quindi ho fatto la situazione del capo e adesso sono dentro casa nella stanza quella dove c'erano tutti i marchi, erano dentro gli scaffali, mi sono messo un balcone lì. Gianni, quanto ti arriva a te Riccardo a casa tua? 9:30. Quindi arriva molto più forte di me, poi arriva 9:20. Vabbè, tu c'hai più vicino, comunque c'è un bel segnale. Ma sei tranquillo, senza aiuto sei Riccardo? No, non ne ho, veramente me l'ha dato. Come ho acceso, mi ho attaccato l'antenna e basta, non mi arrivo più. No. Scusatemi un attimo, che interrompo un secondo, riprendete. Riccardo, io come chiavi voli disegnare? Fai un passaggio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9:20, 9:30, ti arrivi bene qua. Praticamente ho cambiato antenna, non ce l'ho più l'altra. L'altra me l'ha troncata al vento. Adesso ho la Turbo LEM. Ah, com'è? Aspetta, l'antenna, com'è che si chiama? La Turbo LEM. Ah, la Turbo LEM, ho capito. No, già arriva bene qua, arriva veramente bene. Come la Matova 5, la Matova 1, cioè c'ha 4 radiali. No, va bene, è anche fatta bene come antenna. C'è la parte di sotto che è tutta in acciaio. Ho capito. Ma adesso tu invece che radio stai usando? Adesso sto usando il Cobra 200DX. Ah, ho capito. Mi sono notato un attimino, sono rientrato. Quanto tacci i rapporti sia a me che ai Gianni, per avere una curiosità. Dimmi a me e poi Gianni, quanto arrivo io dalle tue parti Riccardo? Gianni arriva, oscilla tra i 9:20 e 9:30. sicuro, beh, 9:20 massimo, comunque ci arrivate bene tutti e due. Sì, sì, no, vabbè, non c'è problema. Tu stai arrivando veramente bene, pensando che c'hai un'antenna e c'è una radio normale, dai. E adesso stai arrivando a bomba, qua, mi sembra il 9:30, lo superi pure. Prova a parlare già. Questo qui è un bel apparato, là, è il Cobra. Lo conosci, Robè? Il Cobra 200DX. È una bella bestia, ma quello, ma tu ti dammi, poi ti dici 40 watt, 30 watt, quanto ne dà? 30. No, si vede, se il 9 superi 9:30, c'è un bel segnale qua. Ma là c'è una specie di eco inserito però. Sì, no, quello è del microfono, se vuoi lo tolgo. Ho tolto delle record, sei pulito senza niente. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E amplifica un bel, pure troppo forte se di radio, già va bene, bellissimo. Sono radio americane, quelli di Cobra hanno delle prestazioni da paura, perché in America non hanno problemi di niente, mica escono con baracchinetti tipo la 48, lì escono super completi già in partenza, hanno potenze esorbitanti. Ok, va bene Ricky. C'è quanto costava questa parte? Non so, quelli costavano una banca di soldi, pare 300-400 euro. Sì, 700 euro costava. No. Vabbè, ma sono radio costruite senza risparmio, hanno tutto, frequenzimetro, il coso, tutti i tipi di canali, quante bande, 4 bande mi pare, c'ha regolato le potenza, ecco, Roger Bip, cos'è che non ha quella radio? Sì, sì, c'è anche l'eco, tutto c'è. Però c'ha anche il coso per stazionare, allora, tutto, no, non gli manca nulla, frequenzimetro, canali a fianco, no, un bel apparecchio, dai, una bomboletta. Cappa, Riccardo, mi ha detto il tuo cos'è, un SBE, che radio mi ha detto, non me lo ricordo. Sì, un SBE, l'ho cercato ma non si trova molto, c'è da scrivere, comunque l'SA 2800. Ma quello argentato, è cromato, quello lì è? No, solo quello, il bordo, quello, la macchina frontale, no, è metallizzato, però peraltro è nero. Ma tu ne avevi uno bello, me lo ricordo, bello grosso, tutto con tutti i tasti cromati, cromato anche il frontalino, argentato. Ce n'è ancora? Che baracchino era quello? Perché no, forse tu stai parlando del Rolls Royce, ce n'è uno, oppure c'era un altro SBE che mi sa è lo stesso cromato. No, era sempre SBE, mi ricordo. E poi c'avevi bello lo Stalker con la radio base, quella era una bellissima radio. A te, quale stai intendendo? Quella grande, c'aveva una stazione base Stalker, che era tipo color legno davanti. Ah, sì, ho capito quale è quella radio adatta. Però quella già era bella, che andava sia a 220 che a 12. No, non era quella radio, era, non aveva male l'FM, però aveva le bande laterali e la M, una radio degli anni 70, però faceva una bella figura. Gianni, di nuovo a te. Ce ne sono una radio, se belle, di quelle antiche, oh, ce ne sono tante che non mi piacciono, ma ce ne sono molte che sono molto belle, anche di vecchia era. Io sono appassionato del Galaxy, però adesso non c'è più. Vabbè, ne ho tanti altri, comunque vanno bene. Togli un po' vecchio già, se no non si capisce. Guarda, adesso si capisce adesso. Nel tutto non lo voglio togliere, perché a me piace con le. Sì, no, ma poco fa era tutto rimbombante, non si capiva, ripeteva, c'era un effetto tipo caverna. Ma adesso va bene, ti ascolto bene. Ti stavo dicendo che ce ne sono tante di quelle vecchia era che sono belle, anche le stazioni base ce ne sono molto belle. Riccardo, quella che ti avevo fatto prendere, te la ricordi che aveva il microfono cromato, un bel bel. Già me la ricordo quella, già dovrebbe essere qui, mi sa che è nel, se non sbaglio quella è immobile, quella è bella, aveva pochi canali perché in realtà era tedesca, però era veramente bella. Di lusso era, quella mi piaceva, io non ho presa solo perché aveva pochi canali, però per chi non ha di queste esigenze, magari ha più di radio e gli piace per collezione, è bella. La più bella già ce l'hanno Claudio, Walter e Marco. Il DAC, quella è la più bella radio base, secondo me in assoluto. Sì, è bella, sì, il DAC è molto bello. Tu pensa che me lo voleva vendere a me Walter, uno, però c'era la mano con la che girava storta e il canale non l'ho voluto perché sono pignolo. che la mia piglioleria se no me lo dava. Mi ha detto dammi l'altro, l'altro tengo io. E quanto te lo sta dando per curiosità? No, non mi ha fatto prezzo, gli ho detto che non lo volevo, quindi non è esistito. Adesso ne ha uno solo, perché uno l'aveva dato via, forse a Daniele, non ricordo chi. Però a me mi piace perché mi scordano un amplificatore di quelli domestici, quelli dell'Audio Reserve, che sono degli amplificatori americani di altissimo pregio e livello, e sono a vago, una vista con quegli strumenti, è proprio bello bello, è enorme, però c'ha una linea vintage proprio bellissima. Più grande di quello c'è solo il tram, leggermente più largo, però non è così alto e non è così bello. Per me la più bella radio, magari ce ne saranno di prestazionali migliori, però non lo posso dire. Io di quelle che ho visto io la più bella, la mia Walter con un microfono della Shure, sembrava che ho una telefonata, una modulazione bella tipo classica valvolare, la voce bella piena, bellissima, una delle più belle radio che abbia ascoltato qua in 27, parliamo come naturalezza. Poi naturalmente se ascolti un 440, 140 è un altro discorso, però come naturalezza di voce con uno Shure era una bestia, veramente bella radio. Ciao Ricky. Ok, ti ringrazio, mi sono tornato, comunque già stavo ascoltando. Guardate, c'era anche io che secondo me dovrei questi giorni accenderla, perché tanto per stare così, perché da un po' che non stavo accendendo. Ricca, quando arrivo io lì da te, che ho 4 watt e sto usando il Superstar 3009. Qua sta arrivando, vabbè, rispetto a Roberto e a Gianni un po' di meno, però sul 9, dai, sul 9. Sto usando la Game Master io come antenna, però ho 4 watt solo e sono quello omologato. Ho capito, no, già sta arrivando lo stesso bene, il segnale già è alto, anche la radio già si capisce. Ma la mia radio come livello di intensità di radio è molto più bassa di quella di Gianni, Erika? Bisognerebbe fare un passaggio, cioè a vedere com'è. Perché sto usando un microfono non amplificato, questo è un 50, MC50, normalmente usavo il 60, solo per confronto. Perché Gianni sta arrivando molto forte come radio, anche Natalia, tu sei 9 più 25 come segnale, Natalia, radio bella chiara e potente. Purtroppo ho questo apparecchio qua, non ne ho altri. Dai, facciamo una colletta e ti regaliamo un coso, un 8,50. Già mi accontento di quello, mi è sempre piaciuto quell'apparecchio lì. Ok, comunque a parte gli scherzi, dai, parlando in generale, io sto cercando di organizzare tramite club, le associazioni, le sezioni, una, come si chiama, un mercatino, una mostra a scambio, come la fanno a Novegro, con le parti sue, a Genova, che le fanno dei coso, unire un paio di club. Io ne ho già parlato con qualcuno di persone, e per dire qualcuno se c'ha qualche radio, qualche baracchino, fare una specie di mostra, magari patrocinata dal comune di Sassari, che ci danno anche il posto dove farla, e coinvolgo gente anche di fuori Sassari, ho già parlato con qualcuno e vogliono partecipare. Poi se qualcuno di voi ha interesse a fare qualcosa, se c'ha qualche radio, facciamo una cosa più carina. Vabbè, non so da cosa si doveva fare, lui lo stava facendo Antonio Brode e poi è caduto tutto, perché ci sono stati dei, non so, qualcuno era d'accordo, insomma non si è fatto. Come voleva fare Antonio Brode una cosa del genere? No, già, io non mi voglio vantare, però ho molto l'esperienza organizzativa, perché per questioni sportive ho organizzato tornei, manifestazioni, di tutto e di più ne ho fatto, anche che non c'entra niente con lo sport del calcio, al mare, giochi senza frontiere, di cose di altri tipi di spettacoli, discoteche, c'era la discoteca, abbiamo fatto la radio, ho fatto un po' di tutto, per cui a livello organizzativo ci vuole solo voglia di farle, ecco. Poi piano piano le cose si fanno, se ci vuole un gruppo di persone che abbia interesse a fare qualcosa, uno si interessa di qualche cosa, l'altro di l'altro, e piano piano si fa tutto, però se non si mette in testa di farle le cose non si va di nulla. Ma anche una giornata, per dire una domenica domenica mattina, ci si organizza, si chiede lo spazio al comune, tipo la promocamera, una cosa del genere, si mandano un po' di lettere alle sezioni, si anticipano almeno di qualche mese, e poi per dire festival della radio, come l'hanno, c'è il, a Ifiri c'è il museo della radio, quello del notaio Faeda, ci sono un po' di radio lì, per dire, puoi fare anche, abbinare anche questa mostra delle radio d'epoca, qualcosa c'ho io, qualcuno c'ha qualche baracchino, per dire la sezione CB di Governo di Soso, di Muros, di quello che è, forse un paio di radio, fa una piccola postazione, un'antennina e poi qualche sezione radio amatori e fa una cosa carina. Io sono sicuro che ci viene un sacco di gente, bella pubblicizzata su Facebook, anche su qualche canale radio, cose del genere, basta avere i contatti giusti e si fa. Io ce l'ho una bella idea e ne ho parlato già con qualcuno e qualcuno mi ha dato la disponibilità. Poi se si spargono le voci si trova un po' di gente. Ho fatto partecipato a dei, come si chiama, delle attivazioni da poco con degli amici, hanno fatto una cosa da campo, delle antenne eccetera, è stato anche divertente. Posso dire, quando c'hai qualche idea e si mette in porto facendo qualcosa di interessante, la gente piano piano si mette, molta gente per vuole la pappa pronta e così non va bene. Vai Riccardo che farei girare dopo. Ho capito, no, è una bella idea, è una bella idea, bisogna vedere. Ormai c'è seconda gente, Mari, ve lo chiamo a voi, perché boh, io vabbè che non stavo accendendo, però su cosa sulla CD rispetto a quando sono entrato. Ma non parlo di 26, io parlo la radio può essere dal telefonino a finire ai satelliti, tutto, interessare tutti i campi, sei la festa della radio, mostra scambio della radio, tu c'hai un ricevitore satellitare vecchio che non ti serve, lo metti di lì, poi tu c'hai un 440, tu c'hai un 48, tu c'hai un F3, c'hai il micro, facendo una cosa del genere, tipo ti porti qualcosa che vuoi scambiare oppure vuoi vendere, non lo so. Sono cose carine, perché qua in Sardegna siamo un po' arretrati in quel campo, in campo motoristico siamo abbastanza avviati, nel senso si sono organizzate delle mostre scambio e cose del genere, io ci vado spesso, soprattutto quella di Oristano che è molto bella e importante, la fanno tutti gli anni verso giugno, è veramente bella, vengono da tutta la Sardegna, addirittura qualche volta venivano fuori, da fuori, e sono cose carine. Vai Gianni e poi Natalino a lui. E come idea c'è, vabbè, però se ci va sempre le persone che accordino l'idea, tu hai lanciato, adesso vediamo. Avanti Natalia, ogni tanto sparisci, Concetta lo sta picchiando. Ma già, guarda, non è complicatissimo farlo, perché coinvolgi le sezioni, prima di tutto, qua a Sassari, in zona c'è sezione di Sassari, sezione Porto Torres e sezione Alghero, e coinvolgi quelli lì. Se avete una possibilità di farvi una bancarella e ti fai una postazione, una cosa, in modo che ci sia anche coinvolgimento delle sezioni, perché qua ogni tanto c'è un pochettino, molte volte ci sono un po' di gelosie, di invidia, uno dice fa quello, l'altro non fare quello, eccetera, eccetera. E a me queste cose non è che mi piacciono più di tanto, perché la radio deve essere libera e pura, diciamo, per tutti, in modo che possano partecipare a tutto. Per dire, coinvolgi anche la scuola, fai venire una classe, una cosa, come l'hanno fatto l'altra volta, per quando c'era quella trasmissione con quella Cristoforetti, hanno coinvolto l'Istituto Nautico di Porto Torres, mi sembra, se non sbaglio, e la sezione quella di Porto Torres ha coinvolto la scuola, ha fatto venire un gruppo di classi, ha fatto spiegare un pochettino come funziona la radio, dalla quando è nata, ha fatto una carrellata di radio dalle vecchie alle ultime, quelle più recenti, quelle digitali, e i ragazzini sono stati interessati, è stata una bella iniziativa. L'unica cosa mi ha trovato lo spazio, basta trovare il giusto appiglio, qualche conoscenza già ce l'ho io e poi vediamo un pochettino da fare. Tanto fare un'unica giornata senza fare roba lunga, una mattina, parte un sabato che è più tranquillo, una domenica mattina, non so, bisogna vedere, e fanno tutto finito, prevede via, è finito tutto, però fatta bene, organizzata bene, con mesi di anticipo, come fanno la promocamera, fanno mostra di cani, mostra di canarini, mostra di gozzo, di pappagalli, hanno fatto tutto il più, non si riesce a fare una dimostrazione di che cos'è la radio. Di nuovo a te Riccardo. Ah, beh, così è già bello, sarebbe da fare, sarebbe una bella idea, come era Io, avanti. Io, Chi sei? Io. Angelo, tu sei? Sì, io. Amico mio, che cosa la dice, sai che dici? Ti ho fatto gli auguri, quando hai fatto gli anni, quanti ne hai fatto? 25. Io ho rientrato Riccardino, lo senti a Riccardino? Amico mio, no, sento. Ciao, Angelo, mi senti o non mi senti? Come vai? Già è da un paio che non ti sento. E allora, Giardino, grande, buonasera, ci sento, buonasera. E allora, come? Tutto a posto, tutto a posto. Sì, a casa, adesso è rientrata a scuola. E niente, oggi ho trovato un momento, ho riacceso e state parlando sul 10, quindi sono entrato. C'è anche Gianni, adesso ti rilancio, a Gianni e Natalia, Natalia si è allontanato probabilmente, Gianni vai per Eugenio. Ehi, ciao Eugenio, tutto bene? Mezzugai, avanti Natalia. Ciao Eugenio, non so se mi ascolti, ho cambiato birichino, già, come sto uscendo? Ma ti sento un po' soffiato quando parli. Forse c'avevo il microfono troppo vicino, da, perché questo è il microfono normale. Adesso va. Ciao Eugì, buonasera anche a te. Sì, grazie a te. Eugì, ma tu sei proprio solito, sì? Sempre con la solita radio, sì, quella i capo. Sì, di fatto, sì, sì, quella, ma l'opera accesa, bellissima, Ciao Mario, ben stifo, tutti su tempo, buonasera. Natalia, ti sta rilanciando Mario. Ciao Mario, ben risentito anche a te dopo tanto. Vai Natalia. Basso basso lo sento a Mario, capito? E anche Eugenio, non li sento tanto bene. C'è anche Gianni, Mario e Riccardino. Vediamo loro, probabilmente li ascolti, dai, che sono di fronte a te. Mario, rilancia Gianni che ti saluta. Ciao Mario, ben sentito di nuovo. Buonasera, va. Saluti Mario, saluti da Franco, ma lo riprendo. Ciao a tutti. Ciao Mario, capitano, ci stiamo bene a tutti. Ciao, dico Martino di Santa Mario, perché ci sta in corrente. Prenderà chi è l'altro che poi ha chiamato quando stava parlando Mario? Ce n'era un altro che stava salutando, chi era avanti? Non ho capito, arrivava anche forte, Mario era circa 8, tu stai arrivando 9 più 5, Eugenio e gli altri, vabbè, arrivano fortissimi, non ho problemi. C'è Riccardino, lo facciamo di nuovo rivedere avanti, Riccardo vai. Ciao Mario, buonasera, adesso per me non l'ho mai sentito, guarda che da un po' che non entro, non mi ricordo tutti. Piano piano già riprendi forma. Mario c'ha la voce simile a cosa, a Tonino Cavalcanti, si assomigliano tantissimo come cosa, come tipo di modulazione, veramente simili. Ok, Eugenio, non ci sei passato più in officina, vuoi avere la moto, vabbè, se sta tutto andando a posto, chi ce la volevi farmela vedere? Ehi Arbe, guarda, come è stato, perché sto dimmi, non 5 minuti, sto uscendo a volo stamattina. Sono 5 minuti, guardate, stiamo lavorando, perché questo metti qua, sembra già scollando, non lo so. Vabbè, purtroppo, grazie a Dio, questo è il periodo buono. Guardate che poi ci sia il giusto riposo, perché fare solo lavoro senza avere riposo è un po' critico per la salute. Vai Gianni, a te. Facciamo andare avanti il break, avanti. Ciao Claudio, ben sentito, cordialità appena entrato, vai. Sono in compagnia di Riccardino, di Eugenio da Porto Torres, Natalino, Roberto Pavarate, insomma va per chi vuole. Ehi, c'è anche Eugenio, l'ho ascoltata Eugenio e Riccardo, ci sono riuscito Claudio? Allora facciamo vedere Eugenio, il più lontano, Eugenio l'hai ascoltata Claudio, da Muros? No, lei strano perché di solito l'ho ascoltato anche bene, oggi non ascolto niente, strano. Come mai? Claudio, attento, Claudio, chi ho da Ruggito? L'hai ascoltato Eugenio, Claudio? Ok, ti saluta comunque, Claudio, non mi ascoltate tra di voi, Claudio e Eugenio. Stranamente, Riccardino, vediamo se lo ascolti, Muros. Sì, ciao Claudio, buonasera, è da un po' che non ci sentivamo, come sta arrivando lì? Ma non è solo il preamplificatore d'antenna, Claudio, il preamplificatore d'antenna è inserito, ok, no, tienilo sempre, però non ci sono segnali così bassi, magari riesci a tirarlo fuori. Adesso di nuovo Gianni, a te il mic, che poi farà girare Natalino e poi a Eugenio. Ehi, vabbè, piede anche io un po' basso, ma magari ancora per scaldare l'apparecchio, non è caldo, come ha detto lui è ancora freddo, magari può riprendere. Avanti Natalino, poi fai girare per un giro. Sì.